in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e per chi è in viaggio naturalmente buon viaggio. Abbiamo sentito per quest'ora insolitamente ma anche non inaspettatamente trafficata tutta la rete autostradale, ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera. Oggi i giornali hanno titoli abbastanza simili, sono due o tre i temi principali. Il primo è quello della reazione ieri del Premier Renzi alle polemiche seguite al voto in Senato che ha negato l'arresto del senatore Azzollini dell'NCD. Siccome appunto lo ricorderete, ne abbiamo letto tanto sui giornali, due vice segretari del PD avevano pareri opposti su questa questione. La vice segretaria Serracchiani aveva detto che il PD avrebbe dovuto scusarsi con i suoi elettori per questa decisione. Molti senatori del PD erano insorti, compresi anche alcuni famosi come Piero Ichino, che ieri ha scritto al Corriere della Sera per spiegare le ragioni del no all'arresto di Azzollini. L'altro vice segretario Orfini aveva detto no, giusto invece questo no, e allora è intervenuto il Premier. Il titolo del Corriere, quindi, non siamo passacarte dei PM. La fotonotizia però, avete sentito tutto anche nel GR, dedicato al terribile fatto di sangue di questo bambino Ali di 18 mesi che è morto nel rogo scatenato nella striscia in Cisgiordania in un attacco da parte di coloni. Il Gianluigi Paracchini ci racconta questo record di presenze che avete sentito nelle spiagge. L'Italia va al mare come ai bei tempi, sulle spiagge a luglio è l'estate più affollata del decennio, i record sono in Campania e in Sicilia. Passiamo al Sole 24 Ore, perché oltre a ricordarvi, come ha già fatto Maria Piera nel GR, che da lunedì ci sarà questa guida operativa, ogni settimana un tema diverso, il tema della prima settimana è casa e condominio da tenere, perché poi servirà anche naturalmente in autunno, quindi poi lunedì ne parleremo quando appunto uscirà il primo numero di questa guida operativa del Sole 24 Ore, che viene ricordata appunto sulla prima pagina del Sole. Il titolo principale però è dedicato alla questione dell'evasione. Abbiamo visto due giorni fa come una prima, anche cominciano ad esserci le prime sentenze della Cassazione sulle nuove norme sull'evasione. E adesso c'è un nuovo via libera ai decreti su rapporti tra fisco e contribuente e sulla fattura elettronica, l'altra grande novità per i contribuenti di questo anno. Il titolo quindi: evasione e controlli, ecco le nuove regole. Trovate tutto a pagina 2, da pagina 2 a pagina 4, con il solito schema che usiamo al Sole 24 Ore, che si chiama Rating 24, cioè dove si dà un voto a tutte le varie misure, e il commento di Raffaele Rizzardi, che i lettori del Sole 24 Ore, in particolare della parte di norme tributi, conoscono bene. Più equilibrio, però ci sono ancora troppe regole. Naturalmente molti approfondimenti li vedremo anche dopo sui dati sull'occupazione, con un commento di Giorgio Bogliotti, qualità non quantità. E poi due approfondimenti che riguardano l'oro. Sapete che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, le quotazioni dell'oro sono molto scese, e allora Lino Terlizzi, che è vice direttore del Corriere del Ticino e storico collaboratore del Sole 24 Ore, ci spiega questa perdita annunciata ieri dalla Banca Centrale Svizzera di 50 miliardi di franchi in 6 mesi, che cosa ha affondato l'Istituto Centrale Svizzero, il l'oro sostanzialmente, di cui possedeva molte risorse, e il superfranco. Ricorderete forse che all'inizio di quest'anno, dopo anni in cui proprio con gli interventi della Banca Centrale Svizzera era stato mantenuto una sorta di parità tra franco svizzero ed euro, il franco svizzero è stato sganciato e quindi si è subito supervalutato, e questo ha causato dei grandi problemi alle esportazioni, un po' come sta succedendo negli Stati Uniti, che con la rivalutazione del dollaro sull'euro, per noi che esportiamo in euro è molto vantaggioso, invece per gli americani che esportano in dollari in questo momento è ovviamente il contrario se esportano per esempio in una zona euro. All'oro è dedicata anche la copertina di Plus 24, che è il settimanale allegato ogni sabato al Sole 24 Ore. Questo scenario avverso: fuggire dall'oro, le quotazioni scivolano ai minimi da 5 anni, dicevamo appunto di questo calo palese delle ultime settimane, ma poi se lo si guarda con più attenzione è un calo che riporta ai livelli di 5 anni fa. La forza dell'azionario fa perdere a PIL. Abbiamo visto ieri sul Sole 24 Ore tutti gli approfondimenti appunto su come sta andando bene il mercato azionario, anche con questa pioggia di utili che stiamo vedendo su Piazza Affari, e anche il differenziale tra gli utili che sono maggiori, anche legati alla questione dei cambi, come abbiamo detto prima, sono maggiori in questo momento per le società europee rispetto a quelle americane. Ovviamente tanti approfondimenti all'interno, gli strumenti, per esempio, quando è meglio puntare sui titoli auriferi o direttamente sul metallo, e poi anche un approfondimento sui cosiddetti compro oro, quei negozi su strada che, scrive il Sole 24 Ore, sono passati dal boom, c'è stato un momento in cui sembrava appunto ce ne fosse uno in ogni quartiere, alla normalità. La Repubblica titola a sua volta su Renzi: Renzi sfida i giudici, non siamo i vostri passacarte, molti commenti anche qui. In prima pagina la lettera di Roberto Saviano, lo scrittore Roberto Saviano, che è anche collaboratore di Repubblica, una lettera aperta al Premier: per salvare il mio sud bisogna fare presto, ormai persino le mafie stanno emigrando. Inizia in copertina, continua a pagina 11, è molto collegata questa lettera ai dati di cui abbiamo dato conto anche ieri, del rapporto Svimez, che ha fatto questa fotografia impietosa dell'economia del Mezzogiorno, il cui PIL è circa la metà di quello del nord del paese. In prima pagina anche il racconto di Emanuela Audisio dell'assegnazione delle Olimpiadi del 2022 a Pechino, e forse la cosa che stupisce è che si tratta di giochi invernali. Pechino naturalmente non è una città di montagna, l'unica altra candidata era Almaty in Kazakistan, che almeno sotto una montagna è, però naturalmente il Kazakistan non ha la forza economica e forse neanche la forza diplomatica all'interno dei comitati olimpici, e quindi alla fine l'ha spuntata appunto Pechino. Il Messaggero: non siamo passacarte dei PM, anche qui stesso virgolettato, sia Repubblica che Messaggero hanno la fotonotizia del bambino ucciso a Nablus, con anche un accenno alle parole di Netanyahu, che avete sentito è andato anche in visita alla famiglia del bambino ucciso, e ha definito proprio questo atto, che si sa già è stato compiuto da coloni, l'ha definito terrorismo. Una notizia che ho visto, trovato solo sul Messaggero, non solo il Messaggero la mette anche in prima pagina, ma c'è proprio solo sul Messaggero, è che le compravendite si faranno solo dai notai. È una delle novità nel DDL competitività, che poi contiene anche tantissime altre cose, come del resto, come potete immaginare, trovate anche sul Sole 24 Ore. Nel giorno in cui tutti i giornali titolano su Renzi, L'Unità ha un altro titolo ed è: La bellezza salverà l'Italia, rapporto 2015 su economia, città e cultura, un nuovo boom grazie ai nostri tesori. La fotonotizia è di una spiaggia ed è riferita all'estate da record. Un titolo sulle parole di Renzi c'è, ma soltanto sotto, nella parte bassa della prima pagina. Renzi alla minoranza PD: non ho paura, avanti e spediti. E bisogna arrivare al catenaccio, cioè la spiegazione del titolo, potremmo dire così, per trovare questa frase sui passacarte. Il premier su Azzollini: senatori non sono passacarte della procura. In compenso c'è la posta di Renzi. Renzi ogni sabato risponde ai lettori e lettori, e la trovate poi nelle pagine centrali. La Stampa sceglie di titolare sulla questione del lavoro, perché a parte i dati che riguardavano soprattutto il sud del rapporto Svimez, ieri l'avete sentito, anche sul Sole 24 Ore vi ho detto c'è anche un commento qualità non quantità, però questi dati di ieri sono sicuramente non buoni rispetto a quello del mese prima, anche perché il dato generale della disoccupazione in Italia resta altissimo, il 12,7%, e quindi il titolo Il lavoro, il dramma dei giovani, anche perché se il 12,7 è la media nazionale, tra gli under 24 questo dato sale al 44,2% ed è il peggiore dal 77. C'è un'intervista al ministro della cultura Franceschini, ieri qui a Milano per Expo sono arrivati più di 80 ministri della cultura a tutto il mondo, c'è stato un grande dibattito, e il ministro Franceschini ribadisce ancora una volta: la cultura è il nostro motore di sviluppo, ma dobbiamo recuperare un po' di senso civico. La fotonotizia è dedicata a quella che viene definita l'estate dei record. Anche il Giornale e Libero titolano su Renzi. Il Giornale: altro che riforme, guadagna 73.000 euro, tasse per 84.000, ecco perché il governo Renzi ha fallito. Questo è un po' un esempio appunto viene raccontata la vicenda di, a volte, quante, lo sappiamo quanto è alta la pressione fiscale in Italia, ma si arriva al paradosso appunto di pagare più tasse di quanto valga il nostro il reddito. C'è anche un accenno, e non l'ho trovato con questa enfasi sugli altri giornali, anche se è una notizia che c'era anche nei telegiornali di ieri sera, cioè le prime indiscrezioni su quello che sta raccontando Buzzi, il grande indagato nell'inchiesta Mafia Capitale, ai magistrati. Il boss di Mafia Mafia Capitale racconta, e il giornale estrapola questa dichiarazione, democratici famelici, mai pagato così tanto un partito. Nei verbali shock del RAS delle COP spunta anche Zingaretti, presidente governatore del Lazio. Marino resiste, ma è sempre più commissariato. Trovate gli approfondimenti poi a pagina 9. Ci lasciamo un attimo anche per il meteo, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto come quasi tutti titolino sulle dichiarazioni di Renzi sulla decisione dei senatori sulla decisione del Senato di negare l'autorizzazione a procedere, del senatore Azzollini. Libero titola sempre su Renzi, però con un focus sulla questione del lavoro, quindi Renzi cambia lavoro quello che Libero definisce il boom di disoccupati. Da quando il fiorentino è premio, 85.000 persone hanno perso il posto, il 3,5% in più. Le sue ricette economiche sono sbagliate, non è il suo mestiere, e ringrazia Eurobasso e petrolio a buon mercato se le cose non vanno peggio. L'Avvenire e Il Manifesto, per il terzo giorno consecutivo, hanno la stessa notizia di apertura. Due giorni fa era quello che sta succedendo a Calais, nei pressi del tunnel che dalla Francia porta verso la Gran Bretagna, con questo rischio che gli immigrati, quasi tutti clandestini, cerchino appunto di entrare nel tunnel, e alcuni di loro rischiano la vita così facendo. Le reazioni della Gran Bretagna. Ieri il titolo era invece sulla questione del Sud, sull'emergenza del Sud evidenziata dal rapporto Svimez. Oggi sia Avvenire che Manifesto titolano sui fatti della Cisgiordania. Quindi Avvenire, fiamme sulla pace dopo l'attacco in Cisgiordania, dove è morto questo bambino di 18 mesi, e sono anche gravi il fratello e i genitori. Molotov contro i palestinesi, muore un bambino, accuse ai coloni israeliani. E le due reazioni, da una parte di Hamas, li colpiremo, e dalla parte di Netanyahu, che, come abbiamo visto, ha definito questo atto, senza mezzi termini, un atto di terrorismo. Ci sono due notizie che trovate anche sugli altri giornali, ma solo l'Avvenire mette in prima pagina. Una è quella che riguarda Ebola, l'avete sentito nel GR, c'è questo vaccino finalmente che funziona, una sperimentazione di aziende americane in Guinea, che ha dimostrato che appunto il vaccino funziona al 100%. E l'altra notizia che trovate, non su tutti i giornali tra l'altro, però su qualche giornale ma non in prima pagina, è quella del rapporto 2014 sulle esecuzioni, su quante esecuzioni sono state fatte nel mondo. Il boia non si ferma, nel 2014 ce ne sono state 3.576 e il primato spetta sempre alla Cina, ma nel 2014 ce ne sono state tantissime anche in Iran, Pakistan e in generale in Asia. Il Manifesto, vi dicevo, il titolo esatto è Vacanze in Colonia, perché sapete che il Manifesto ha sempre questi titoli, insomma, molto, si vede che c'è molto lavoro sui titoli, e per cercare, insomma, anche se forse qualcuno potrebbe dire in certi casi non c'è bisogno di cercare a tutti i costi il titolo, diciamo così, ironico o il gioco di parole, però Vacanze in Colonia, appunto perché come abbiamo detto i responsabili di questo attentato in Cisgiordania sono i coloni ebrei estremisti danno fuoco a una casa palestinese in Cisgiordania, muore un bimbo di 18 mesi, feriti il fratello di 4 anni e i genitori. Sulle pareti scritte in ebraico vendetta, il premier Netanyahu terroristi, la ANP Israele responsabile, intervenga la Conte penale, gli USA condannano, l'Italia per ora tace, scrive il Messaggero. Il fatto dedica il suo titolo di apertura a Renzi, ma non tanto sulle parole di Azzollini che sono nel catenaccio, ma sulla questione della RAI. Parla di BBC e invade la RAI. Sapete che questa riforma della RAI viene anche definita in stile BBC, molti non sono d'accordo, vedremo, insomma, perché per ora è passata soltanto al Senato, vedremo adesso alla Camera con quali modifiche, poi forse ne riparleremo. E poi una notizia che ha soltanto il Fatto Quotidiano sulla quella che viene definita la riabilitazione di Pietro, su una questione di soldi pubblici che avrebbe preso, era stato accusato appunto di aver preso soldi pubblici nel 2012 da una persona che aveva dato la sua versione di certi fatti alla trasmissione Report, e l'ex PM si era difeso, e ora appunto la sentenza gli dà ragione, non aveva mai preso quei soldi. La Gazzetta dello Sport ha una lunga intervista che richiamate in prima pagina, che trovate a pagina 2-3, al neo allenatore del Milan Mihajlovic, che sapete è reduce da una buona partita in Cina. Tutti dicono che insomma queste prime prove del Milan sono molto positive, e allora una foto di Mihajlovic super sorridente: a tutto Mihajlovic, Milan siamo già da Champions, e con due colpi, naturalmente due colpi di mercato. Sapete che in questi giorni sono tantissime le voci che si rincorrono appunto sul mercato, sul calcio mercato d'estate. Veniamo alle pagine interne. Un bel reportage sul Corriere della Sera, pagina 15, di Paolo Saloma, dal Tibet. Rifugio Tibet, viaggio nel cuore segreto dell'Asia, dal trono di Lhasa ai villaggi socialisti, basta non chiedere del Dalai Lama. E poi un virgolettato tra i tanti raccolti da Paolo Saloma: siamo un popolo allegro, amiamo gli scherzi e le battute di spirito, ma ci sono due mondi in Tibet, due mondi che difficilmente si incontrano. Perché anche insomma chi magari segue troppo fedelmente i precetti della religione forse diventa un po' meno leggero, ecco, forse anche un po' meno allegro, questo sembra dirci Paolo Salom. E poi sul Corriere, ma trovate la notizia anche in altri giornali, questa forse l'avete anche sentito, avete visto le immagini in televisione, questa bella vicenda siciliana della colletta del Movimento 5 Stelle, che è riuscito a riaprire quella strada che era crollata, che erano crollati i piloni del viadotto Palermo Catania, spezzando un po' la Sicilia in due. Hanno lavorato gratis molte ditte siciliane che hanno partecipato a questi lavori. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle si sono autotassati. La foto è quella di Giancarlo Cancellieri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, e così insomma in tempi record, soprattutto per l'Italia, la Sicilia è stata riunita. Forse ricorderete, ieri abbiamo citato i voti della maturità e questo evidente gap che c'è tra il nord e il sud. Al sud ci sono molti più cento e molti più cento e lode, e anche oggi due interviste per cercare un po' di spiegare questo gap. Una a Chiara Fornaro, che è una docente a Torino: al nord siamo troppo rigidi, serve il coraggio di dare 10. E poi un'intervista a Patrizia Grima, insegnante invece a Bari: al sud le lodi sono meritate, qui si studia per il riscatto. Perché come sempre in Italia amiamo sempre le dietrologie. Qualcuno ha ipotizzato che questo gap sia dovuto a differenti metodi di valutazione, forse semplicemente come si intuiva dall'articolo di ieri, ma anche forse da quello di oggi, forse ce ne saranno altri sul Corriere, c'è più impegno, più voglia di riscatto al sud. Appunto, quelli che eccellono, gli studenti eccellenti, hanno veramente una marcia in più, puntano davvero a quel cento e lode che può essere magari anche il passaporto, il passepartout per magari purtroppo anche lasciare il sud, visto che abbiamo detto quanto poco lavoro c'è al sud. A pagina 5 del Sole 24 Ore trovate tutti gli approfondimenti sulla questione lavoro, e quindi Giorgio Pogliotti che analizza questi dati di ieri, poi c'è il suo commento più qualità, appunto, che non è ancora quantità, e ancora un approfondimento poi sulla riforma della scuola, che in qualche modo è anche legata perché include anche delle novità sull'alternanza scuola-lavoro, e quindi anche un aggiornamento su questo. A pagina 15 trovate lo specchietto che vi anticipa tutte le uscite della guida di cui vi parlavo, che inizierà con lunedì, la guida sulle questioni pratiche che riguardano la famiglia. E invece nelle pagine di finanza vi segnalo un articolo di Walter Riolfi, perché in agosto naturalmente moltissime persone, soprattutto in Italia, saranno in vacanza, ma le borse naturalmente non chiudono, e allora una previsione: sarà un agosto tranquillo, così dicono, ma gli operatori sottovalutano, secondo l'analisi di Walter Riolfi, il rischio Cina e le difficoltà che affliggono i paesi emergenti. Le borse non crescono da mesi, i titoli di Stato oscillano attorno ai medesimi livelli e le valute sembrano aver scontato le diverse politiche monetarie. Sulla questione palestinese, a pagina 15 trovate un'intervista allo scrittore Abraham Yehoshua, che è molto preoccupato, dice: clima di odio mai visto, nessuno ferma gli estremisti. La denuncia dello scrittore: la polizia conosce tutti i violenti degli insediamenti ma continua a non agire. Quindi una delle tante voci critiche all'interno di Israele verso appunto la politica del governo verso i coloni. Vi segnalo invece dal Messaggero un'intervista a Carlo Cottarelli, che sapete era il commissario alla Spending Review e ora è tornato al Fondo Monetario Internazionale, il lavoro a cui l'aveva, per così dire, strappato Renzi per fargli fare il commissario della Spending Review. Ridurre la spesa non basta, tariffe più alte nei trasporti. Questo è un tema magari anche difficile da toccare nei giorni in cui si parla di tanti disservizi nei trasporti, però chiunque sia stato all'estero sa che per esempio i trasporti pubblici nelle città di Londra, di New York, di Parigi sono molto più cari di quelli per esempio di Milano e Roma, quindi un ritocco delle tariffe, poi naturalmente bisogna capire come vengono usati questi soldi, probabilmente è necessario. Vi dicevo la tristissima classifica delle esecuzioni capitali, la pena di morte nel mondo, a pagina 14 per esempio il Messaggero, uno dei giornali che dà più spazio a questi dati, la strage delle esecuzioni, la Cina la prima come vi dicevo e poi c'è subito l'Iran. Negli ultimi 10 anni, questa se vogliamo la notizia positiva, è che 17 paesi dove prima la pena di morte esisteva vi hanno rinunciato. Se volete sorridere, a pagina 7 di Libero c'è la foto di Yanis Varoufakis con la sua camicia patchwork tutta sui toni del rosa e del rosso che ha sfoggiato ieri al Parlamento greco e sapete che invece forse avete, se siete su Twitter avete visto che Formigoni, che invece è ritratto accanto con una delle sue camicie molto fantasiose, qui il tono principale è quello del viola, persino i calzoni sono viola, e dice appunto Formigoni: ah beh, non siamo d'accordo sulle idee, ma le camicie, in fatto di camicie ha fatto le scelte giuste. Poi c'è il commento di Libero che è un po' graffiante, appunto si chiama Il Graffio. Sempre su Libero un approfondimento su questi viaggi definiti viaggi dell'orrore, cioè questi safari dove si pagano cifre altissime però è garantita l'uccisione di un leone o di un elefante o di un bufalo. Benedetta Vitetta ci ricorda: per uccidere le specie protette c'è proprio un listino prezzi, ci sono delle agenzie ufficiali. Tutto parte naturalmente dalla vicenda del leone Cecil ucciso in Zimbabwe da un dentista del Minnesota che ha pagato questa avventura $55,000 o €55,000. Dall'Avvenire anche come sempre notizie che non si trovano su altri giornali, qui un focus sul sud del Sudan, una parte appunto un paese africano dove è tornata una gravissima carestia, guerra civile, orrori e fame, salviamo il sud del Sudan, accendere un faro come dico sempre su questioni che forse su cui non riflettiamo perché magari non c'è un risvolto economico, un risvolto geopolitico. Intanto però lì si muore, ci sono 11,5 milioni di persone nel sud del Sudan, in questa Repubblica del Centro Africa, e molti di loro in questo momento sono a rischio dell'ennesima carestia. Un'ultima segnalazione, visto che oggi è sabato e ci sono tanti supplementi in edicola, c'è oltre a Io Donna con il Corriere che ha in copertina l'attrice Zoe Saldana e di Repubblica che invece Jennifer Connelly con tanti approfondimenti all'interno, vi segnalo anche una bella intervista su Repubblica allo scrittore Hanif Kureishi che si racconta, parla di sé, del suo nuovo libro, il titolo Tollero tutto ma i miei figli devono tifare Manchester United, non Manchester City, la sua passione per il calcio del resto è nota. E un'ultimissima segnalazione, un po' di parte se volete, però mi fa sempre piacere trovare questi articoli sul Foglio, un lungo articolo di Stefano Cingolani che ci racconta, si intitola Carta delle mie brame, dicevano che i giornali sconfitti dal web sarebbero morti, invece sono diventati oggetto del desiderio, riferimento naturalmente per esempio a Jeff Bezos di Amazon che si è comprato il Washington Post, ma anche a tutti i grandi magnati che in realtà sono interessati alla carta stampata. Dobbiamo cambiare, ce lo diciamo noi stessi, appunto noi stessi giornalisti, però forse la carta non è vero come è stato predetto che i giornali moriranno, cambieranno ma resisteranno, così come succederà per i libri, credo e spero. Era l'ultima segnalazione prima del traffico, ci risentiamo però subito dopo per la parte europea della nostra rassegna del sabato.